Con Carolina Gatto del coordinamento Mi riconosci? All'interno del comitato organizzativo della manifestazione per la cultura e il lavoro il prossimo 6 ottobre a Roma. Carolina, ben trovata. Partiamo Bentrovati a voi, grazie, buongiorno a tutti. dall'inizio, come nasce tutto? Allora, sì, sono veramente tanto felice per questa opportunità. Mi piace tanto raccontare come è nata questa manifestazione. Beh, io faccio parte del coordinamento di Mi riconosci, sono un professionista dei beni culturali. Insieme ad altre associazioni, ma anche ad altri singoli professionisti, persone del mondo della cultura, abbiamo immaginato una manifestazione che potesse per la prima volta parlare di cultura in senso generale, ampio, quindi senza esclusioni di categorie, ma appunto restituendo al pubblico, ai media, quella che è l'idea che noi abbiamo di cultura e che chi vive di cultura ha ormai da tempo, che è quella di una cultura quanto più onnicomprensiva possibile, perché appunto non si può parlare di separazioni all'interno di quest'ambito. Ebbene, il 30 aprile, proprio per questo, il 30 aprile di quest'anno abbiamo lanciato sui social un appello pubblico, all'interno del quale abbiamo detto: noi abbiamo quest'idea, ne abbiamo discusso anche con altre persone, con altri rappresentanti di categoria. Bene, quello che vogliamo fare è lanciare una manifestazione proprio per la cultura e unire la parola cultura alla parola lavoro. La risposta sui social è stata veramente, veramente immediata e abbastanza eterogenea, devo dire, per cui abbiamo iniziato da subito a collaborare insieme a molti comitati, molte associazioni, molte realtà che appunto spaziavano da quelle rappresentative dei professionisti dei beni culturali, come, un po' come noi, a quelli invece che si occupano dei musicisti, degli attori, di altre categorie che appunto sono inscindibili dalla parola cultura, insieme anche ai sindacati, insieme a realtà molto, molto eterogenee, anche a singoli. In questo modo, quindi, è stato possibile avviare un vero e proprio percorso che è quello che condurrà poi alla giornata del 6 ottobre. Allora, partiamo dall'appello anche, quali sono le parole d'ordine in modo più, semplificativo? Allora, sicuramente la parola d'ordine non esiste una parola d'ordine. Quello che noi abbiamo fatto è stato creare un manifesto. Manifesto all'interno del quale abbiamo un po' unito le nostre idee. È stato anche questo diciamo, pubblicamente messo in discussione e raccontato alla gente e anche in maniera partecipativa rimodulato. In questo senso abbiamo raccolto dei punti. Abbiamo innanzitutto deciso di aprire il nostro manifesto con una visione ottimistica e propositiva, perché quello che ci spinge a credere nella cultura è sicuramente un amore profondo verso quello che facciamo, che vorremmo fare, ma anche una visione ottimistica, una lettura ottimistica di quelli che sono i dati. Ad esempio, abbiamo rilevato come il settore culturale muove 250 miliardi, che è il 17% del PIL, in controtendenza rispetto a molti, molti altri settori. Questo vuol dire che, per farla breve, così come abbiamo scritto nell'incipit del nostro manifesto, ogni euro, ad esempio, investito in cultura, ne produce 1,8 in altri settori, quindi non si può parlare di settore in crisi. Forse, un'economia in crisi c'è, e questo non si può negare, ma non è sicuramente il settore culturale quello che si deve far carico di questa crisi, anzi, si può fare traino di novità, proprio perché non ha fino ad ora dimostrato una discesa, ma anzi ha continuato a crescere nonostante gli investimenti invece non ci fossero in cultura. Questo vuol dire che ha di per sé un potenziale trainante. E quindi abbiamo parlato di questi dati e poi però abbiamo detto: risparmiare sulla cultura in Italia è una scelta suicida. Quello che noi chiediamo è di portare l'investimento in cultura all'1,5% del PIL. Questo è uno dei punti che noi abbiamo messo all'interno delle richieste del nostro manifesto. Aumentare i finanziamenti pubblici nel settore dello spettacolo, il FUS, lo conosciamo benissimo, se ne è parlato tanto. così come pubblicare decreti attuativi di alcune norme che attendono nei cassetti probabilmente di essere attuate proprio perché passa in secondo piano o perché non si vuole ottenere il riconoscimento dei professionisti dei beni culturali. Allo stesso modo si parla di volontariato culturale, di lavoro nero, sottopagato, di sfruttamento. Bene, proprio in questo senso è quello che questo è un importantissimo punto perché è un comportamento abbastanza consolidato su più piani, su le istituzioni più piccole, pubbliche o private, ma anche sugli enti più grandi, in termini di enti culturali, di istituzioni culturali. Quindi lì dove il volontariato o, per fare un esempio, il servizio civile, è considerato uno strumento in sostituzione del lavoro, a tutti gli effetti dei professionisti, beh, questo sicuramente, se è permesso dalla legge, c'è qualche problema a monte. E quindi noi vogliamo stimolare attraverso questi punti, ma anche tanti altri che trovate su internet, sul nostro manifesto, sul sito Manifestazione per la Cultura e il Lavoro, vogliamo stimolare ovviamente ad un confronto con la politica, un confronto attivo e propositivo, che parta da questi punti per discutere di tante tante altre istanze. Ci presenti anche la giornata del 6 ottobre? Certo, allora, il 6 ottobre innanzitutto ci si riunisce a Porta San Paolo a Roma alle ore 10 del mattino e si arriva poi, diciamo, qualche oretta dopo, a Piazza Mastai, dove si terrà un'assemblea, quindi nel pomeriggio saremo a Piazza Mastai per confrontarci, ci saranno interventi pubblici da parte dei vari soggetti proponenti appunto la manifestazione e che hanno aderito. Ci saranno occasioni di confronto, si cercherà probabilmente, così come ci aspettiamo, di capire quali saranno le sorti poi di questa manifestazione una volta terminata la giornata del 6 ottobre. Sicuramente sarà un percorso molto molto interessante, sia il corteo così come l'assemblea che si terrà appunto a Piazza Mastai. Quindi, ripeto, ci incontriamo tutti il 6 alle ore 10 a Porta San Paolo e poi si continua la giornata, si spera all'insegna appunto del confronto e cercando di essere numerosi e stimolare anche l'interesse dei media e l'interesse pubblico quanto più possibile. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, allora trovate la nostra pagina Manifestazione per la Cultura e il Lavoro su Facebook. Allo stesso modo, per quanto riguarda il sito web, www.manifestazionecultura-lavoro.it. Perfetto. Sì, noi rispondiamo, abbiamo anche un indirizzo mail che trovate appunto all'interno sia del sito che della nostra pagina. Poi in queste ore stiamo lanciando gli eventi che riguardano i bus che stiamo organizzando gratuiti o lì dove è stato possibile appunto a copertura gratuita o parziale e quindi troverete anche questi eventi che lanciamo e sicuramente comunicare alla nostra pagina o ai referenti che troverete all'interno appunto delle informazioni la vostra partecipazione e il luogo da cui intendete partire. Ci aiuta tantissimo ad organizzare questi bus e cercare di avere una copertura gratuita il più possibile. Grazie ovviamente all'aiuto dei sindacati e degli altri soggetti proponenti, appunto. Quindi mi raccomando, non abbiate nessun problema a scriverci e a dirci da dove partite, quanti siete e a dimostrarci anche il vostro entusiasmo che in queste ore, in questi giorni è fondamentale. Ricordiamo allora la manifestazione per la cultura e il lavoro a Roma il prossimo 6 ottobre. Un saluto e un ringraziamento a Carolina Gatto del coordinamento Mi riconosci, sono un professionista dei beni culturali, che è interno al comitato organizzativo della manifestazione. E Carolina, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi. Grazie. Sì, certo, a presto, grazie mille.